al Vico delle Quaglie, che non esiste più, Paolo da Canobbio, Via Larga, Santo Stefano, cioè gli intorni, diciamo, della statale fino ai bordi di Piazza Diaz, era un quartiere. E poi c'era, questo era un quartiere fortemente centrale e popolato da, e costituito da centinaia di case fatiscenti, di ringhiera, vecchissime, con molte case di tolleranza, e c'erano in via Chiaravale, c'erano via Disciplini, c'erano in via delle Quaglie, c'erano in via Tre Alberghi, tutte intorno, quindi concentrate di fronte alla statale fino a Piazza Diaz. Ed era quindi un luogo che però era anche, andava praticamente a confinare con zone ricche come via Durini, San Babila, e quindi c'era un dislivello fortissimo tra queste due zone. E quindi diciamo che era nella tradizione storica dentro le mura romane della città, dove invece, come abbiamo visto l'altra volta, il ticinese era tra le mura romane e le mura spagnole della città specificatamente. E questo era molto noto. Ed era il quartiere dei più dritti sostanzialmente, perché erano vicini, questa sintonia con le zone ricche determinava un accrescimento dell'intelligenza e della capacità di comportarsi. Cioè aveva una maggiore intelligenza che derivava da una fusione di comportamenti, da una contiguità con altre classi, eccetera, eccetera. E poi perché sostanzialmente tutti convergevano sul centro, che è quello degli altri quartieri popolari, la struttura di banda. Gli altri quartieri sono molti, però diciamo che i più importanti erano la Trecca era un quartiere di case minime popolari costruite nel dopoguerra per i bombardamenti, in periferia vicino al vecchio macello, diciamo dietro l'attuale palazzina di Vecchi, spostandosi verso l'Idroscalo. C'era la Baia del Re, che è un'antichissima zona, e milanese si chiama tuttora la Baia del Re per resto, che è sui bordi del Naviglio, oltre San Gottardo, via Meda, via Palmieri, queste zone qui. C'erano l'Isola, che è una zona popolare di antichissima tradizione, dietro l'attuale stazione di corso di Porta Garibaldi. E poi c'era la Porta Romana Bella, e la Casba, cioè Porta Genova, quasi cinese. Ecco, dentro questa struttura di quartieri evidentemente si andavano sempre più fondendo elementi di immigrazione e elementi nati nel quartiere o affluiti in quel quartiere, comunque da altri quartieri di Milano, in seguito ai grandi sconvolgimenti e bombardamenti bellici. E il luogo privilegiato dove si formava l'aggregazione giovanile erano i bar. Altre cose non c'erano, salvo le sedi dei partiti, in questo caso principalmente le sedi del Partito Comunista o Casa del Popolo o sezioni che aprivano, ma già questa era una scelta politica di una minoranza sostanzialmente. Gli altri, il luogo era il bar. Il bar era il luogo di socializzazione complessiva di tutto, di tutte le esperienze, di tutti i propri comportamenti, in una generazione di giovani che sostanzialmente uscì dalla guerra, aveva scarsissima istruzione, espulsi in maniera assai prematura dalla scuola, non esisteva la scuola milionificata, non esisteva la scuola dell'obbligo, sì, arrivava la quinta elementare e poi le scuole si dividevano in tre parti, no? Commerciali, avviamento professionale e scuola media. Scuola media si chiamavano i figli dei ricchi, o perlomeno della piccola borghesia privilegiata. Alle commerciali si andavano le donne perché erano destinate a diventare segretarie, no? E all'avviamento professionale si andavano gli uomini perché erano destinati a diventare operai. Cioè, quindi si andava addirittura in tutta scuola, avviamento professionale. Ecco, questo era un po'. E quindi c'era un abbandono scolastico altissimo. E quindi dentro questo abbandono scolastico è una precoce avviamento al lavoro, 13, 14 anni, 12 anni, il tempo a disposizione poi veniva socializzato dentro questi bar che avevano il biliardo, avevano sale, avevano spazio dove passare anche le serate su particolare obiettivo. Ma le compagnie erano una struttura principalmente maschile, erano bande a struttura maschile, e le bande a struttura maschile, come tutti sanno, nella tradizione escludono la presenza femminile nella gran parte, e come è ovvio il problema del rapporto con le donne diventava poi il problema centrale dell'esistenza. Credo che non sia cambiato neanche successivamente, ma saranno cambiati i modi, ma in quella situazione particolare del dopoguerra italiano degli anni 50 le ragazze erano molto controllate e chiuse nella casa, anche quando fossero di estrazione popolare, operaia o comunque artigiana nei quartieri popolari, e quindi soprattutto quello del quartiere erano intoccabili, abbiamo già detto l'altra volta, e quindi perché erano sorelle di amici, quindi erano, cioè, invece quello degli altri quartieri erano territorio di libera conquista. Allora succedeva che dentro questo percorso il luogo principale dove era possibile conoscere le ragazze erano le sale da ballo, e le sale da ballo avevano una struttura particolare. Le sale da ballo erano prima cosa molto grandi, nella gran parte erano molto grandi, ed erano situate in zone diverse della città, ed erano un luogo di incontro di compagnie di quartieri diversi in competizione tra loro, ed erano sale da ballo a richiesta. Questo vuol dire che c'erano queste enormi stanze con, quasi sempre con orchestra e non con i dischi. Tra l'altro loro c'erano quelli di 78 giri, quelli che si erano in terra si rompevano, ma evidentemente, no? E i fonografi con le puntine di acciaio che scavavano, e quindi c'erano le orchestre. Queste orchestre praticamente erano specializzate nel ballo liscio, sostanzialmente le orchestre di derivazione professionale degli anni 40. E questo rito del ballo come si estrinsecava? Che in queste sale entravano gli uomini da soli, le donne da sole, e in genere le donne stavano su un lato della sala, nella gran parte, su un lato verticale della sala, e gli uomini stavano dall'altra. State ascoltando Twilight, Radio Popolare, giovedì 14 marzo, e avete appena sentito... Ecco, detto questo, però chiaramente la sera erano pochi, allora le compagnie cominciavano a vagare, non c'erano più queste, o diminuivano sempre più queste grandi sale da ballo, cominciavano a vagare per la città, e Milano è una città commerciale, bottegaia, complessa, e evidentemente la cosa è stata avvertita dai locali, ma era anche un clima culturale, credo, nel senso che nascono in quegli anni dei locali particolari, dei locali che sono diversi dal solito bar di quartiere dove c'è la banda, il gruppo, la compagnia, e sono luoghi che hanno la loro generalità, principalmente di tipo artistico, certamente a Brera, ma non solo a Brera, anche dalla zona medievale di Milano, diciamo dietro via Torino, tra via Torino e Corso Magenta. Lì c'erano due locali frequentatissimi, uno si chiamava le Cantine Morigi e l'altro si chiamava dal Pino alla Parete, credo che ci sia ancora oggi parato, solo da allora era enormemente frequentato. Addirittura le cantine con tutte le bottiglie erano attrezzate per starci alla sera, e lì creavano delle cose di attrazione, come ad esempio la Luganica Flambé o il gelato Flambé, gelato alla fiamma, sono, e questa dava una sensazione di internazionalità. Giravano pittori pazzi che poi sarebbero diventati famosi, ad esempio come Bali ed altri, in questo ambiente, con alcuni episodi di scandali del nascente boom economico che si riversavano nel clima culturale di questo locale. Mi ricordo ad esempio quel pittore Francimè, per fare un esempio, che era coinvolto nello scandalo di Capocotta della Montesi, che morì ammazzato in un gioco un po' da tipo cacciatore, nel senso che lì giocavano a spararsi da uno studio all'altro dei pittori, ma con delle carabine vere, e durante una di queste sparatorie si è preso una pelota in mezzo alla fronte, doveva essere un gioco, cioè si sparavano contro i quadri per distruggersi le opere d'arte a vicenda, sostanzialmente, no? Allora lì da una finestra all'altra, quando uno si metteva davanti alla finestra a dipingere, gli altri sparavano, e invece in quel caso hanno sbagliato a mirare, il povero Francimè è rimasto. Vabbè, era già stato ferito una volta, aveva fondato un'associazione degli artisti infortunati, no? Cioè gli artisti infortunati che davano via delle tessere, no? Per questi giochi. E però quella volta invece è stata tragica. Cioè, dico così perché era già morto, ma in realtà era vissuto con un clima un po' folle, questo. E i locali cominciavano a prolungare sempre più l'orario di apertura. Cioè, i locali aprivano, anche se dovevano chiudere alle 2, in realtà tiravano le 2, 2:30 perché c'erano questi ragazzi. Chiusi i locali, alle 2, 2:30, cominciavi a girare per la città, girava molto a piedi, cominciavano a girare moltissimi 500, 600, però il prezzo di costo era sempre elevato. Ma cominciavi a girare perché non avevi mai voglia di andare a casa, perché il vuoto culturale prodotto dall'aggregazione del precedente ciclo di occupazione del tempo libero era troppo grande e non sapevi bene come riempirlo, e poi c'erano delle inquietudini molto forti sulla società che cambiava, e i segnali erano quindi di tipo diverso, dall'abbigliamento delle donne che diventava sempre più spregiudicato, su un termine stereotipo, chiaramente, non sei più libero, direi, ai film che erano sempre più osè, agli spettacoli teatrali, a questi locali dove cominciavi a trovare compagnie di ragazze sole, nella prima serata, tra le 10 erano tutti, tutti uomini, insomma, nella prima serata. E però ti segnali che tu leggevi come qualcosa da capire, da comunicare. E soprattutto capivi che cambiava il ritmo economico che ti circolava intorno e nascevano quindi esigenze di carriera, di salire. Mentre, anche se non facevi politica, sentivi un clima internazionale, c'era il Vietnam, c'era Cuba, c'erano... lo vivevi magari un po' distaccato nel quartiere, però sostanzialmente capivi che c'era... Io personalmente no, perché magari ero un politico finora, però sostanzialmente vi era una compagnia, la gran parte non di politici, quindi enorme, di centinaia di persone. E quindi c'era questa inquietudine che ti portava a dei comportamenti bizzarri o imitativi di modelli stranieri. Quindi giravi in alto cosa vuol dire? Girare da andare a bere in un locale, magari dalle parti di Viale Monza e tornare a piedi a Porta Genova o viceversa, andare a Porta Genova attraverso la circolazione, camminando e parlando all'infinito per ore fino alle 4 del mattino. Questo è il popolo della notte, questo girare in tutte le compagnie in continuo che si aggiravano per la strada e con cui a volte nascevano dei giochi di comunicazione molto complicati. Ad esempio c'era un locale in via Foscolo dietro a Viale Montenero, era il primo locale interamente gay milanese. Ma devo dire che il proprietario era un ex quadrista camicia nera e quindi aveva dietro il banco la sua foto con la camicia nera, no? In realtà era gay, no? E poi si andava in una stanzetta dietro, c'era un jukebox e c'è, è la prima volta che l'abbiamo visto noi, insomma, nel senso, dopo è diventato più normale, insomma. Però tu ci sedevi lì a bere e c'era un uomo che ti veniva a chiedere di ballare, no? E allora su questa domanda di... All'inizio degli anni 60 abbiamo seguito finora il percorso delle notti milanesi e abbiamo visto questo avvento del micidiale whisky a go-go. Cosa succede a questo punto? Ma a questo punto succedono una quantità incredibile di cose. C'era stato nei termini politici questo mitico luglio 60 con... i giovani del Magliette a righe che erano scesi sulle piazze per abbattere il governo Tambroni, e questo però era un fatto politico eccezionale, però era anche un segnale di profondi cambiamenti, cioè i giovani si muovevano sulle piazze contro il governo Tambroni, sì, perché era un po' fascista, ma perché aveva anche altre esigenze di comunicazione, di comportamenti collettivi, si usciva proprio definitivamente dagli anni 50. C'era stato a Sanremo, nella musica ad esempio, una piccola rivoluzione, c'era stato Domenico Modugno, c'era stata Mina, Domenico Modugno di Volare, c'era stata Mina con Tintarella di Luna, aveva segnato il definitivo ridimensionamento della musica puramente melodica, quindi si era alla vigilia di una grande trasformazione. Certo che sentiti oggi sarebbe un po' buffo, no, dire questo. È il momento dei famosi urlatori o...? Sì, siamo alla vigilia della nascita degli urlatori e dei giovani che cominciano a suonare per conto proprio in complesso. In realtà, come abbiamo visto nelle puntate precedenti, in questi locali definiti impropriamente esistenzialisti c'erano questi appunto con questi nomi americani, Milan College e simili, che suonavano del jazz, ma da lì in avanti invece cominciano ad ascoltare i suoni lontani che venivano dall'Inghilterra e dall'America, di una modifica delle musiche, delle canzoni e anche dei comportamenti, non proprio subito dopo l'inizio del 60, ma due o tre anni dopo, poco più, cioè due o tre anni dopo sarebbero arrivati quelli che cominciavano a portare i capelli lunghi, sarebbero arrivati uniti ai Blue Jeans, che c'erano già anche prima, a portare le camicie a fiori, si sentivano echi in America di qualcosa che stava succedendo. C'era stata nel panorama culturale generale l'elezione di Giovanni XXIII III come Papa, con un grande titolo dell'Espresso che diceva Habemus Pontificem, l'Espresso allora era una specie di lenzuolo enorme. E poi c'era stato questo luglio 60, incredibile, non mai decifrato, ad esempio non esiste ancora tutt'oggi un libro sulla storia del luglio 60, evidentemente. Nei quartieri a Milano lo shock della lenta decadenza delle sale esistenzialiste, delle sale da ballo a richiesta, aveva determinato un certo scompenso, una certa crisi dei comportamenti, e che aveva contribuito sostanzialmente a modificare la tradizionale scontro tra bande, no? Cioè all'inizio degli anni 60 si viene fatto un governo che venne definito da Moro, da allora, delle convergenze parallele, no? Cioè Moro era abile a inventare queste grandi definizioni che significavano tutto e nulla. E allora venne, dico ironicamente, evidentemente, tra le bande di quartiere una serie di convergenze parallele, no? Il problema era sempre questo delle donne, non che era un'ossessione, ma certo che era un problema rilevante. E allora cosa succedeva? Che per trovare le ragazze per poi entrare in queste nuove sale da ballo, gli whisky a go-go, occorreva andarci in coppia, come ho detto nella precedente puntata, ma per andarci in coppia occorreva trovare dei meccanismi di socializzazione e di comunicazione. E quindi inizia una specie di accordo tra gruppi di quartiere, che io definisco appunto ironicamente le convergenze parallele, per organizzare le feste private e per affittare gli scantinati, e nascono quindi questi piccoli club nelle cantine abbandonate, che vengono imbiancate, vengono restaurate. Ne ricordo uno proprio in pieno centro di Milano, cioè dietro il Teatro Lirico, che venne fondato allora. C'era un grande scantinato, si chiamava Marilyn Monroe Club, ed c'era una grande fotografia all'ingresso di Marilyn Monroe nel film famoso Niagara, con questo passo col fianco leggermente inclinato. Lei aveva una regolarità e quindi aveva questo tipo di passo, con sotto ironicamente una specie di lampada accesa, un po' una lampada furtiva sostanzialmente. Non era ancora morta, chiaramente sarebbe morta poco dopo, ma ecco. E però questo erano un tentativo di opporsi di nuovo con una nuova forma di socializzazione, di comunicazione tra gli uomini, tra i ragazzi e le ragazze, creando questi luoghi autogestiti. In realtà le cose più complesse invece avvenivano in queste feste private. C'erano alcuni che avevano le case che erano disponibili a domenica pomeriggio, o avevano dei genitori più liberali, si direbbe oggi, insomma, più disponibili. E però, siccome le feste private ovviamente non potevano avvenire esclusivamente con le ragazze del quartiere, per i motivi già detti di parentela e simili, un po' tribali, si cominciano questi scambi che arrivano ai ragazzi degli altri quartieri a seguito. Cioè c'è una socializzazione delle donne gestite, se vuoi, un po' con occhio critico, un po' come un capitale, no? Delle singole cose di quartiere. E iniziano queste feste private che duravano, devo dire, in termini di luce pochissimo, nel senso che duravano circa un'ora con le luci, con il bagno, ma poi sostanzialmente calava l'oscurità e non che succedeva anche di più. Però la rivoluzione dei comportamenti sono state rilevanti soprattutto da parte delle ragazze. Cioè potrei dire sostanzialmente che quelle che cominciavano ad avere, le ragazze che cominciavano ad avere 19-20 anni, 18-19 anni nel 1960-61, avevano una disponibilità ad avere un rapporto più complesso con il ragazzo di quanto non avesse l'autorepressione del ragazzo, cioè, tanto che questo provocava un certo shock nei comportamenti, perché non si era proprio abituati al fatto che la ragazza prendesse l'iniziativa, cioè era una cosa sconvolgente sostanzialmente, no? Che prendesse l'iniziativa, che comunque si abbandonasse in queste feste private a forme di affettività a cui non si era abituati. Per cui con una certa prevenzione da dire, ma allora queste qui sono tutte un po' irregolari sul comportamento, hanno frantumato alcune regole fisse, insomma, queste cose qui. E però sostanzialmente queste convergenze parallele hanno funzionato soprattutto per abbassare la tensione che c'era tra quartiere e quartiere. Gli scontri del sala da ballo tendono a diminuire quasi in maniera molto forte, iniziano questi scambi di comunicazione, molti si sposano rapidamente, travolti travolti da questa offensiva delle ragazze, no? o prendono degli innamoramenti devastanti, sono degli innamoramenti assolutamente incredibili, che a mio giudizio sono serviti a crescere questo elemento, hanno tolto una cultura ormai definitivamente, anche se un po' affascinante, quella maschile degli anni 50, ma definitivamente invecchiando, no? E però la crisi dell'innamoramento e questa segnali in anticipo di qualche anno dell'autonomia dei comportamenti delle donne ebbero un effetto di potere sostanzialmente erotico, sessuale, affettivo sui giovani di allora, specialmente quelli di 24-25 anni, perché erano più impreparati degli altri evidentemente, che li portavano secondo me ad una crescita attraverso la crisi. Ecco, questi sono i meccanismi di modificazione, però restava sempre il fatto che non avevano lo stesso grande agibilità del proprio tempo libero delle ragazze, quindi i pomeriggi del sabato e della domenica avvenivano questo effetto in questi piccoli club che nascevano qua e là per la città e permettevano degli incontri, e però la sera raramente uscivano le ragazze. Di nuovo uscivano la sera questi strati proletari, per usare un termine poi abusato negli anni 70, diciamo le donne di servizio, le infermiere, quelle che avevano il lavoro, che erano donne lavoratrici, quindi probabilmente fino ad ora potevano chiamare una certa indipendenza, ma studentesse simili e connesse avevano un... Poi non so perché le commesse non sono più controllate, adesso è un meccanismo complicato. C'era una lunga fila di fronte, certo, alla Rinascente, nuova sede, alla sera all'uscita ad aspettare. Era quasi una cosa un po' buffa, lungo via Santa Radegonda trovavi 80-90 ragazzi in piedi che aspettavano l'uscita di queste ragazze, con questa frequentazione quasi un po' ridicola e anche un po' sorprendente del passare dei pomeriggi interi dentro la Rinascente, dentro la Standa, senza comprare nulla, ma per lanciare occhiate o comunicare. Queste ragazze lavoravano moltissimo perché facevano degli orari molto pesanti e allora guadagnavano credo 30.000 lire al mese, e insomma, erano pochissime anche allora 30.000 lire al mese. E quindi c'era questo meccanismo di andare nei luoghi di lavoro dove si poteva comunicare, cioè certamente poteva entrare negli ospedali, ma cioè, c'era questa modificazione, studentesse, c'era sempre più gente che studiava, c'era la vicina della scuola media unificata, per cui questo determinava i cambiamenti di afflusso di massa dentro la scuola, e si cominciava ad andare di fronte al Cattaneo ad esempio, o ad altri istituti, dico al Cattaneo perché è più vicino alla libreria, ma però anche ad altri istituti femminili come il liceo Manzoni, che allora era vicino a Piazza Cavour, vicino agli avvenimenti pubblici, a tentare gli approcci per strada all'uscita dalla scuola con tutte le tecniche un po' particolari, soprattutto il vestire. Questa questione della rivolta dello stile e dell'identità è una cosa che nasce molto lontana, no? Ne parlano molto oggi i sociologi. Era vestirsi in un modo che attirava evidentemente l'attenzione, come del resto precedentemente, solo che prima facevi in strada a bar e solo facevi in strada di fronte nei luoghi dove potevi andare a comunicare con le ragazze. E questo era la prima.